Buonasera. Ciao Martina. Io sto malissimo. Siamo un po' di corsa oggi, comunque benvenuti. Buonasera a tutti, siamo in realtà in diretta da un'ora e un quarto. Dalla regia dicono che tutto è a posto, vi spiego perché siamo in diretta da un'ora e un quarto. Perché questa sera abbiamo dovuto rimontare la radio, non c'era Fede che faceva la regia. E siamo in tre e nessuno ci capisce niente, di cavi, cavetti, cose, è stato un disagio pazzesco. È stato bellissimo come al solito, ma ce l'abbiamo fatta Martina! Quindi, buonasera Chucky! Ciao Martina, anche oggi siamo qua ad accompagnarvi alla cena o al puntatone di chi l'ha visto. È vero, è mercoledì. Oggi è mercoledì. Io questa... come... sì, mi dica. Comunicazione di servizio, Lindron. Comunque ci tengo sempre a ricordare che siamo su Daily Bug, il programma radiofonico numero uno al mondo nello sviscerare tutte le frustrazioni tipiche di una giornata lavorativa. Va bene. Sempre perché mi piace leggere. Ci tengo a chiedere a tutti i nostri fans che questa sera sono all'ascolto se vogliono dirci come va, se ci sentono, se va tutto bene. È stato molto difficile, non so nemmeno come abbiamo fatto. Anche qui. Perché avevamo una colonna sonora. Sì, abbastanza è vero, impegnativa. Cioè, abbiamo lanciato musiche a caso per. Vabbè. Comunque. Allora Chucky, Martina, ecco, magari togliamoli questi. L'imbarazzo in stallo, no vabbè, ciao Chiara. Allora, insomma, siamo tutti qui per parlare questa sera di smart working. Sì, va bene, prendiamoci un attimo di risate, scusate tutti amici a casa, è stato veramente mezz'ora di difficoltà totale. Allora, Chucky, parliamo di smart working questa sera. Bellissimo, un argomento che secondo me terrà incollati tutti i nostri ascoltatori. Sì, anche se devo dire che ero un po' preoccupata quest'idea perché comunque sono 2 anni che si sente parlare di questo tema e avevo un po' paura di annoiare i nostri ascoltatori, ma tanto noi lo sappiamo che come la raccontiamo noi la storia non la racconta nessuno. E quindi sono abbastanza convinta che andrà alla grande. Di brutto, anche perché è un tema molto discusso e secondo me è sempre in voga, soprattutto adesso che ci si avvicina al ma il Covid non c'è più. Esatto, e ci teniamo a presentarvi l'ospite di questa sera. Nessuno ragazzi! Però ci teniamo a salutare Greta in redazione. Ma in realtà io farò gli stacchetti pubblicitari. Grazie, ah, è vero, Greta. Perché questa sera presenteremo finalmente i nostri sponsor, ma vediamo, verremo alla slide più tardi. Greta che ci ha aiutato un sacchissimo per rendere questa puntata possibile e disponibile a voi questa sera. Ma veniamo subito al sodo, Fedoro. Ecco, ciao apposta, Fedoro, ci manchi. Ci sono anche degli scambi di persone. Chucky, come sempre iniziamo con i tuoi fantastici numerini. Vorrei che ci raccontassi un pochettino lo scenario smart working in Italia nel 2022. Allora, ti dico subito che come anticipavo prima, pandemia e lockdown sono stati fenomeni che hanno rivelato comportamenti davvero interessanti e soprattutto molto inerenti a quello di cui discuteremo stasera. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro stasera siamo con i microfoni mobili e mi sento veramente molto Barbara D'Urso. Ma io mi sento un po' in Fantastico negli anni Ottanta, quando trascinavi il filo fino all'angolo della però ci possiamo muovere finalmente. Esatto, che bello. Adesso scusa l'interruzione. Farò anche degli stacchetti che sì? Voi non potete vedere, ma... Ma magari poi Greta ci fa delle dirette esatto. Instagram. Comunque, allora, secondo i dati dell'osservatorio smart working del Policlinico di Milano... Il Politecnico, Giuseppe. Scusate. Sì, ma portatemi via veramente. Vabbè. Scusate, il lapsus non è un caso. Perdonate. Scusate, ma mi ha fatto riderissimo. Allora, dovete sapere che la pandemia evidentemente a me ha lasciato uno strascico non indifferente. Perché scambiare il Politecnico con il Policlinico è bellissimo. Comunque, torniamo a noi seri. Allora, questo osservatorio del Politecnico di Milano dimostra che lo smart working già prima della pandemia era una realtà abbastanza affermata. In tempi non sospetti, già tra il 2013 e il 2019, gli smart workers sono aumentati esponenzialmente, perché si è passati da 150.000 a circa 570.000 lavoratori da remoto. Tipo del 400%. Esatto, insomma. Esatto. Poi il colpo di grazia l'hanno dato pandemia e lockdown, perché la quota nazionale è passata in un anno dal 15 al 77% dei lavoratori smart working. Ovviamente la paura del contagio ha messo il booster a questo fenomeno. Certo, poi praticamente tutti quelli che potevano stare a casa alla fine sono stati a casa. Esatto, per cui, esatto. Il totale di chi aveva possibilità di lavorare da casa si è fermato. Insomma. Esattamente, anche perché evidentemente poi ci ha preso gusto. Sì. Sì, devo dire che secondo me poi è stato un continuo andare verso lo smart sempre di più. Sì, sì, diciamo che poi però adesso siamo nel 2022, in teoria dal primo di aprile qualcosina è cambiato in termini di smart working, no? Allora sì, con la fine dello stato di emergenza sì, sono cambiate un po' di cose, perché rimane in vigore ancora il regime semplificato per lo smart nelle aziende private, per cui non c'è ancora l'obbligo di una contrattualizzazione vera e propria. Poi vedremo cosa succederà, però un po' di numeri, snoccioliamo un po' di numeri. Dai, ancora più interessanti. Cioè, un'ora che parli, ma questo volevo sapere. Giusto? Allora, dovete sapere che secondo una ricerca AGI, il 47% dei professionisti italiani intervistati sullo smart working preferisce un modello ibrido tra ufficio e lavoro in pigiama da casa. Il 30% preferirebbe lavorare a tempo pieno in ufficio, mentre solo il 23% preferirebbe lavorare sempre da casa. Non sono d'accordo, ma se lo dice l'AGI. L'AGI. Poi LinkedIn approfondisce la ricerca, per cui il 37% di coloro che hanno espresso la preferenza di usufruire dello smart working, sia full time che part time, hanno indicato come motivazione la ricerca di un maggiore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. E il 32% preferisce lo smart working per evitare il pendolarismo. Sì, che è una bruttissima piaga. Io per esperienza personale ho fatto quasi 6 anni a dover fare avanti e indietro da un posto di lavoro che tipo era 1:40 da casa. Cioè è logorante, anche perché è vero che quel tempo lo puoi impiegare per leggere, pensare. Sì, magari uno vuole anche dormire, esatto. Per esempio. Per però dire. Diciamo che è un tempo che tu in teoria potresti guadagnare per fare altro. Esatto. E il 21% in poi spiega che addirittura è più produttivo in casa che in ufficio. Alzo un pochino il volume perché da casa mi dicono che vale la pena alzarlo un pelino. Molto bene. Vediamo molto se bene. È un po' meglio così. Quindi sostanzialmente qualcuno c'è che si ritiene comunque più produttivo a casa, no? Non quanti mi aspettavo io, ma fondamentalmente un buon 21% c'è. Esatto. Tra le persone che poi preferiscono lavorare in ufficio, la motivazione più gettonata riguarda il piacere di essere circondati da altre persone, quindi da colleghi, per far due chiacchiere, per bere il caffè insieme, per scambiarsi anche idee più facilmente, più velocemente rispetto certo. a una bella diretta su Zoom. Mentre l'altra grossa fetta pensa di essere invece più produttivo in ufficio. Bene, bravo. Beh, molto bene. Sì, che poi va un po' a cozzare, cioè ci sono quelli che vogliono andare in ufficio per vedere gli amici, però poi dopo lavorano di più. Esatto. Punto di domanda. Allora, il 33% degli intervistati poi trova che la possibilità di cambiare scenario, cioè tra casa e ufficio, possa portare degli indubbi benefici, mentre meno di un terzo dichiara di essere più sedentario nel lavorare da casa, fattore che non, cioè che influisce molto sulla sanità fisica e mentale. Sì, questo devo dire che effettivamente è un po' uno degli aspetti negativi del lavorare da casa, il fatto che comunque sei più fermo, sei più sedentario, ti muovi meno, ti sposti poco, insomma. Esatto, perché anche solo il percorso casa ufficio, secondo me, diciamo che è un buon risveglio. Sì, sì, è vero, questo è vero. Ma veniamo al 13% di queste persone che secondo me ti appartengono, Giuseppe. Ecco, questo 13% a cui io appartengo proprio, ho delle aderenze in, sì, in questa percentuale, dichiara invece di spendere molti più soldi lavorando da casa, perché è più distratto e poi l'e-commerce ti aiuta molto facilmente a fare questa cosa. Ti porta. Ti, sì, porta, esatto. Beh, direi che il quadro, come sempre, è completo, ma andiamo con un po' di musica. Va bene, eh? Meravigliosa musica, Martina, che piace a tutti, tranne che a me. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother. Mother, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her. Che meraviglia, Martina, guarda, stavo per suicidarmi. Ma allora, io ho scoperto nel analizzare il nostro pubblico che al nostro pubblico piace la bella musica e si erano un po' rotti della tua musica pecoreccia trash. No, guarda, cioè è bellissima, cioè è avanguardia quella che scelgo io. Che poi, attenzione, il primo stacco è sempre avanguardia, il secondo stacco è un po' più... No. Ho deciso che per il mio piccolo filone di musica tornerò a proporre dei pezzi solo cose belle, meravigliosi, sì, quantomeno meravigliosi. E quindi niente, ti ho regalato questo momento. Però è arrivato il momento poesia. Madonna, sì, ti prego, decantamela la tua poesia, decantamela. Molto bene. Allora, come sempre, Giuse, ho cercato di fare un identikit dello smart worker. Molto bene. Chiedo sempre ai nostri amici da casa, se avessero altri input, di condividerli con noi, quindi su WhatsApp, se avete i nostri numeri, oppure sui nostri social network, soprattutto Instagram. Supermad. Esatto. È il profilo da cercare su Instagram. Ma l'hai detto molto velocemente. Dunque, allora, sostanzialmente io ti ho identificato questi identikit. Dai. Partiamo dal mio preferito, il Rinato. Oh. Il Rinat. La Rinat. Il Rinat. Il Rinat. Sostanzialmente è colui che ha riscoperto un mondo da quando è a casa. La cucina, il decoupage, il fai da te. La stirlo, il lavo, il faccio, sistemo la casa, vado a fare un giro meraviglioso. Hai letto il cane, il gatto. Tutto faccio. E ogni tanto mi ricordo che devo pure lavorare. Insomma, lobbista. Ma io adoro questa figura professionale, perché poi... figura professionale, questo tipo di smart worker, perché... Dopo il policlinico. Esatto, dopo il policlinico. Perché mi rendo conto, tra l'altro, che questo tipo di smart worker è anche tendenzialmente un po' adulto. Cioè, è quella persona che... si è fatta un culo quadro, che non sapeva nemmeno cosa fosse fare smart working. A un certo punto si ritrova a casa. E si riappropria delle sue passioni. E si accorge che c'erano delle cose che prima... prima? Prima di iniziare a lavorare e immergersi nel lavoro gli piacevano fare. Per cui se la gode. E io proprio voto a spada tratta per il Rinato. Per la rinascita. Sì, sì, sì, sì. Poi non so se i vari collaboratori / responsabili sono felici di ciò. Però loro sono felici e questo rende felice me. Se poi il Rinato ha un profilo Instagram, si vede, la rinascita si vede alla esatto. grande. Ma andiamo avanti. Veniamo alla tua categoria, il dispersivo. Ah, sì, sono io. Che non è esattamente il Rinato, perché il Rinato non ha consapevolezza di perdere del tempo. Lui lo sta guadagnando il tempo. Io invece lo perdo, esatto. Ma proprio lo cerco anche il quello che ho perso. Il dispersivo si mette davanti al computer, ci prova a fare smart working, ma poi si perde con la mosca che passa, con la piastrella che c'ha la macchia. Con la televendita, con la radio, perché la poi radio. La radio mi porta via. Quindi in realtà è proprio, diciamo, colui che è questo tipo di figura è quella che ha di più di tutte subito questa più o meno situazione forzata dello smart working, sì. Di questi due anni. Lo confesso. Poi chi abbiamo? Abbiamo l'home worker. E qui veniamo alla parte un po' più difficile. Allora... ecco. Cosa succede? Bisogna fare una piccola distinzione fra smart working e home working. Tecnicamente smart working non significa lavorare da casa. Quello che è accaduto per il 75-80% delle persone che si sono trovate in smart è stato in realtà lavorare da casa. Esatto. Lavorare da casa con un orario tendenzialmente 9-18 quando andava bene. Perché poi succedeva che, ma tanto sei a casa, per cui ti scrivo alle 7, per cui ti mando una mail alle 8, per cui ti mando un messaggino alle 9, per cui tu ti trovi a lavorare molto di più. Esatto. Quindi la casa diventa la tua prigione, cioè tu la vedi, tra virgolette, poi in realtà stai lavorando tutto il giorno. Sì, se prima avevi la scusa, sto uscendo dall'ufficio, esatto. Ci sentiamo domani, oggi è, no, sempre davanti al computer solo. Esatto. Lì stavo e lì sarò. Quindi complice anche ovviamente degli atteggiamenti negativi lato poi collaboratori / responsabili, perché alla fine ognuno dovrebbero imparare a rispettare lo spazio altrui, e questa cosa un po' si è persa, si è un po' fluidificata, diciamo, con lo smart working. E poi c'è lo smart worker vero. Lo smart worker vero è questa figura mitologica sempre. Che, esatto, mitologica, leggendaria. Tendenzialmente fa smart working da prima del Covid, quindi conosce la metodologia, ha imparato a lavorare per obiettivi, non secondo orari, riesce a stabilire delle tempistiche di consegna oneste, il che tutto rende possibile fondamentalmente un modo di vivere che è un po' più mescolato, quindi c'è un miglior bilanciamento vita-lavoro. Non c'è necessariamente il fatto di mi siedo alle 9 e mi rialzo alle 18, magari mi siedo alle 11, mi rialzo alle 15, poi torno alle 17, poi per oggi ho finito le mie task e dopo domani torno. Quindi questa cosa che meraviglia, capito? Che utopia! È leggendaria, veramente. È assolutamente leggendaria. Cioè, è impossibile. Non è impossibile, quasi. Giuseppe. Non è impossibile, Giuseppe. Andiamo avanti. Poi c'è lo Stakhanov. Allora, lo Stakhanov non è l'home worker, perché l'home worker subisce un lavoro, diciamo, oltranza. Lo Stakhanov è quello che sostanzialmente non ha mai accettato lo smart working. Per cui il Covid, non il Covid, la zona rossa, è tutto chiuso, è i cani robot, e lui in ufficio ci è andato sempre. Certo, certo. Mai un giorno di Covid, mai un giorno di smart. Allora, bisogna poi indagare sulle motivazioni. Ma infatti io qui intendo chi poteva fare smart working. È chiaro che il falegname, poro Cristo, sempre là no, deve andare. Ma no? Tu pensa quello che si ritrova in 38 metri quadri con due figli, una moglie, quattro cani e due gatti. E te so, ma mica te l'ha ordinato il medico. E c'hai ragione, però quelli stavano prima del lockdown. Io ho capito, ma non è che uno... cioè, anche questa cosa qua, a me tutte le coppie che sono scoppiate, cioè io una domandina me la sarei fatta prima, ma grazie a Dio che è arrivato il Covid. È vero anche quello, è vero anche quello, però. Scusate se sono un po' cinica su questo punto, ma secondo me... Come dire, un po' tranchant. Cioè, uno dovrebbe stare bene, non è che uno non vede l'ora di uscire di casa per andare a lavorare. Ma vabbè. Vabbè, Giuse, io l'ho già detto, però te lo chiedo. Tu che tipo sei? Allora, io sono decisamente un po' dispersivo, come dire. Un pochino. Non è che abbia molto tollerato l'home working, anzi per niente. Anche perché poi, cioè, perdo tempo e necessariamente divento uno staccanovista, ma più che altro per recuperare. Devo recuperare, esatto. Sono scelte di vita. Esatto. Poi, per l'amor di Dio, è tanto bello stare a casa ogni tanto. Ma preferisco fare lo smart worker vero a questo punto. E tu, Martina? Ma guarda, io ti dirò. Io sono sicuramente stata per prima e post Covid un home worker. Cioè una persona che ha perso un pochettino l'inizio e la fine del suo lavoro. Ma devo dire che in queste ultime, diciamo che dal 2022 sto cercando di fare uno switch verso lo smart working vero e mi sto imponendo un modo diverso di lavorare. Stay tuned, vi farò sapere se ma ce la farò. Sì, ma sicuramente ce la farei, anche perché sennò esci pazza, Martina. No, esatto. Adesso vorrei provare a fare quello che non sono riuscita a fare prima, cioè fare entrare una musica ad un volume audio. No, un ma mettila pure dall'inizio, cioè... Non è l'inizio questo? No, questa è l'ultima però, Martina. Ah, tu non vuoi questa? Scusate! No, allora, adesso c'è il pezzo che tutti stavate aspettando, allora, quello sì. Di Avanguardia. Giuse vuole mettere prima il pezzo di Avanguardia, perdonatemi. Quindi partiamo da questo. Esattamente. Esattamente, Martina. Abbiamo... Madonna, vi prego, adesso lancio un appello per la regia. C'è qualcuno che vuole cortesemente, gentilmente venire? È questo, vai. Scusateci, ragazzi, ci siamo. Sulle mani tutti quanti. Voglio ballare. Se vale me ma non mi vero, sto pure una porta perché luce le sirene. Saccio capi campi over, se ancora con chilo dice ancora con bene. Però quando si reggiamo sempre a me, dice che mi pensa che mi vuole. Faccia fa perché non ne va niente, ma anche sotto per dovere contento. Ma mi sento solo si diventa, vado a scordare. Voglio ballare con te, vicino ma senza parlare. Nenne, tocca me mani, ci stai tu rinde pensiero ma vado. Voglio ballare, la la la la la la la la la la la la la. Voglio ballare, la la la la la la la la la la la. Voglio ballare con te sotto stella a te pensare, ma tu sei più bella e mo che fa. Tu vuoi sta con me, però se ti chiamo tu non mi risponde mai. Questo ballo reggaeton amore si può mettere in dei ma non si già stesse raier si cagnate ma non sapev i te vedere come una fed stiamo insieme con tante quante te non si chiude senza manco mi guarda chissà che dice quando mi dire passa se mi accompagna non mi vuoi manco guarda per ascoltare voglio ballare. puedo escuchar la la la la la la, voy a bailar la la la la la la, voy a bailar la la. Guardia pura, pura. Ma poi mi rovini uno stromè con questa merda sopra? Ma non ti... No, ma no, Martina, è bellissima. Dunque, Giuse, come ho detto all'inizio, dobbiamo, la nostra presenza su queste stazioni radio ha degli sponsor ed è giusto dare lo spazio che questi sponsor meritano. Questa puntata è offerta da Ghiaccio Sexy. Lava anche tu i tuoi capi con l'ammorbidente dell'anno. Grazie a Ghiaccio grazie, Sexy grazie. Che ci permette che rende tutto questo possibile di essere qui a trasmettere questa puntata. Niente, basta, l'abbiamo perso. Io lo sapevo che non avrebbe retto al colpo. Grazie, grazie Ghiaccio Sexy. Meraviglia, meraviglia. Dove siamo? Dove siamo rimasti? Allora, se vuoi ti racconto invece la mia di esperienza di smart working. Sì, sì, tra l'altro, scusami, te lo devo dire. La Roby Mascheroni dice che l'hai fatta ballare. Vedi? Vedi Roby? Grande, grande Roby, grande. Io lo sapevo. Cioè, questa è musica che ti induce al movimento. Invece Fabri dice ho dovuto abbassare altrimenti i vicini pensavano che fosse arrivato il calcio in culo delle giostre. No, vabbè, però allora cerchiamo, diamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte, voglio dire. E infatti ho dato un colpo al cerchio e una botte, capito, ti ho dato un pro e un contro. No, Fabri, ti prego, vuoi che la rimettiamo? No, un no, ma non voglio io. Regia. Regia sono io, cioè è tutto qui, però ci sono pure gli sponsor questa sera. Detto ciò, torniamo a noi e quindi voglio sapere un pochettino... il discorso smart per te, come l'hai vissuta questa cosa dello smart working? Ma allora io ti devo dire che ero già smart worker prima dei in tempi non sospetti, nel senso che io ho iniziato a lavorare in smart working dopo la mia prima esperienza nel mondo del turismo e, aiuto. E ho iniziato a girare un po' di co-working dove tra le altre cose ho conosciuto tantissima gente ed è stata un'esperienza molto stimolante che però non ero ancora in grado di apprezzare così tanto. Certo. Poi c'è stata una pausa di lunga 8 anni quasi in ufficio e sono chiamiamola pausa e poi sono tornato ad una sorta di nomadismo milanese. Tra le altre cose, in questo limbo di nomadismo... Sono arrivata io. Ho conosciuto anche te, Martina. Oh yes, e anche Greta. E anche Gretana. Grazie, Ghiaccio Sexy. Che tra l'altro, tutto molto bello, un sacco di gente figa, ma non... è stato un periodo un po' incasinato per te, in realtà, quello. Esatto, esatto. Perché poi mi ritrovavo un po' a lavorare lì, un po' a casa, un po' in un co-working, a fare 200 cose in una volta sola... Ma poi, grazie al Signore, ho trovato una certa stabilità. Direi grazie al tuo responsabile, esatto. Nonché capo. Però va bene, possiamo esatto. Alzare anche il livello dei ringraziamenti, se vuoi. Poi io ritengo che lo smart working sia sicuramente più nomadismo che lavoro da casa, cioè... Quello è... Sì, secondo me lì siamo proprio su un upgrade importante. Esatto, ma se devi fare smart working, come dicevi all'inizio tu, la figura leggendaria è quello che poi va a lavorare un po' sì, dove vuole. Sì, in proiezione è colui che riesce a gestire anche un po' il tema del movimento costante, quindi del viaggio, del nomadismo digitale, che ovviamente in parte è mito, perché poi alla fine uno... Sì. Deve anche lavorare, però secondo me c'è un po' la possibilità di arrivare lì, quello sì. Assolutamente sì, ne sono convinto, si può fare, ovviamente ci vuole un buon equilibrio sia di tempi che di risorse. Certo. E comunque a casa io mai, non riuscirei mai a lavorare solo a casa. in ufficio, mi piace andare in ufficio, ma più che altro perché mi piace avere a che fare con i miei colleghi, semplicemente. Ciao, no, Angela, certo. Ciao Marco. No, no, certo, sicuramente il confronto aiuta, quello sì, quello sì. E invece Martina, la tua esperienza qual è? Momenti di altissimo livello, vi prego. Andrò velocissima, non vorrei fare monologhi, però sostanzialmente cosa succede? Io 3 anni fa mi invento questo progetto Super Mad, no? E quindi all'inizio per necessità io non ho pensato ad un ufficio, non ho pensato a delle mura, ma ho iniziato a lavorare per gli affari miei da casa ovviamente, e questa cosa in realtà mi spaventava molto. Però questa modalità che è, come dicevo all'inizio, era un po' home working più che smart working, poi mi è piaciuta, nel senso che è diventata un po' una scelta. Perché? Perché non è un vincolo, perché con il Covid mi ha graziato, perché non avevo delle spese a cui dovevo comunque far fronte, perché alla fine con i ragazzi con cui collaboro, vedi Greta, riusciamo assolutamente a trovare delle dinamiche per vederci, per stare insieme anche senza avere un ufficio. Loro sono liberi, io sono libera, vengo da te ogni tanto, ci sei. Certo. E quindi fondamentalmente questa cosa mi piace. Vorrei dare, come dicevo prima, un po' di boost in più, quindi sentirmi anche un po' sciolta, un po' più libera nel dare spazio anche ad altro nella mia vita, quindi trovare un bilanciamento sempre più 50-50 fra ciò che è lavoro e ciò che è vita privata, o comunque anche altre attività non strettamente legate al lavoro. Certo, una gestione del tempo più umana. Un po' più dinamica, anche perché alla fine io credo che per come sono andate le cose, per la nostra generazione, bisogna anche un attimino rivedere un po' le priorità. Cioè noi non siamo più quelli che ha il posto fisso, ha 35 anni di lavoro e poi una super pensione, non è più così. Esatto. Quindi è un lavoro che ti accompagna, il lavoro ti accompagna fondamentalmente per tutta la tua vita, uscito da scuola o dall'università, perché dovrai lavorare fino alla morte. Per cui uno dice, ok, devo anche bilanciare il fatto che gli anni migliori della mia vita voglio che abbiano anche il giusto spazio per vivere anche altro. In più, secondo me, c'è anche un approccio diverso al denaro e quindi anche provare in qualche modo a, diciamo, accontentarsi un po' di meno, ma godersela un po' di più, per quanto poi le possibilità economiche te lo possano garantire, no? Sì, diciamo che deve esserci un buon equilibrio sia di tempo che di risorse, come dicevo poi prima. Ci deve essere anche, sia da chi lavora che dal committente, anche una certa elasticità. Perché è quello che manca, secondo me. Sì, sì, io credo che uno dei motivi fondamentali che ci rendono difficile questo passaggio, quindi questo nuovo approccio, nuova modalità di vivere il lavoro, è proprio questa. Cioè, tutti quanti noi dovremmo ristabilire delle priorità. Sentivo l'altro giorno delle storie dove appunto si faceva la differenza fra ciò che è urgente e ciò che è importante. Il concetto di urgenza è relativo e questa cosa in realtà è un po' il motivo che ci ha rovinato. Esatto. Cioè esatto. Sostanzialmente l'idea del tutto subito, del io ti chiamo, tu devi essere sempre disponibile, no. Ed è un problema che in realtà abbiamo generato noi. E certo, perché eravamo sempre pronti, sempre seduti per dare una risposta veloce. Esatto, esatto. Quindi questa cosa qui, secondo me, è un po' il punto, è un po' il trick da cui partire per poter effettivamente ripensare anche al rapporto che l'essere umano ha con il lavoro, che è fondamentale, per l'amor di Dio, però non è l'unica cosa e non deve nemmeno essere quella che prevarica sul resto, secondo me. Sì, perché poi, secondo me, cioè il problema sta nel fatto che noi abbiamo vissuto lo smart working come un'imposizione senza essere educati, esatto, a questo tipo di modalità lavorativa. Questa cosa, sì, da una parte ha fatto contenti molti perché mentre lavori puoi caricare la lavatrice, però dall'altra ha reso ancora più schiavi tutti quanti del va bene, ti rispondo subito. Esatto, esatto. Quindi fondamentalmente credo che sia proprio un problema culturale innanzitutto. Esatto. E da questo punto di vista bisognerebbe partire per poter poi reimpostare effettivamente il nostro modo di far entrare il lavoro nella nostra vita in maniera sicuramente più bilanciata e più equilibrata famoso life balance. Esatto, il famoso equilibrio di cui tutti parlano in questo periodo, vita-lavoro, che però dobbiamo anche noi imparare a conquistarci, insomma. Sì, sì, cioè stanno succedendo troppe cose brutte nel mondo, stiamo disimparando la qualunque, ma secondo me qualcosina di buono da queste cose brutte ce le dobbiamo portare dietro. Anche il fatto stesso di il discorso del one life only, no? Esatto. Ecco, esatto. Quella roba lì, quella roba lì. Comunque, bene, come sempre siamo riusciti a fare delle cose che mettono un po' di ansia. E no, vabbè, dai, però cioè, l'importante in questo momento è parlarne per educare. Sì, esatto, secondo me noi dobbiamo insistere su questa cosa, perché poi c'è sempre il tentativo di dire sì, però il lavoro è un'altra roba, sì, però questo è tutta utopia. No, no, cazzo! Non è utopia, perché no, è fattibilissimo. Certo, ci devono essere ci deve essere il contesto giusto, perché è ovvio che un idraulico non potrà mai... No, certo, sicuramente ci sono dei lavori che restano molto legati a determinate dinamiche, ma secondo me in maniera differente si può, secondo me, comunque trovare un nuovo bilanciamento anche per quelle persone che oggettivamente poi il loro lavoro fisico lo devono fare in presenza, no? Esatto, esatto. Quindi alla fine, secondo me, in qualche modo ce la possiamo cavare. Molto bene, adesso è il momento del tuo stacco musicale. Ma qua stiamo parlando di qualità vera, eh? Sì, vabbè, però voglio vedere se la Roby Mascheroni adesso balla. Secondo me la merà. Vediamo la Tassi se adesso balla. Ballano tutti! To move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness. One step beyond. Lavoro. Allora io inviterei tutti ad andare sul profilo di Supermad e mettere ai voti le musiche, cioè esprimete delle preferenze sulle mie o sulle sue. Allora è vero che questa è una canzone di famiglia, però io ho ricevuto un botto di complimenti, mio padre, mia sorella, mio cugino, mia nonna, insomma questa è cacchiarola. Vabbè, diciamo che abbracciamo tutti i target, quello un po' più... Boh, non lo so, culturalmente avanzato? No, perché la mia è avanguardia, quindi dovrebbero essere tutti più culturalmente più preparati rispetto all'avanguardia. Però, a parte questa filosofia della musica... Ma sì, allora sì, sicuramente poi questa cosa è... come dire, personale, però oggettivamente stiamo parlando di due livelli musicali molto, molto, molto, molto distanti. Adesso vediamo se arrivano contributi. Sì, la Roby dice, i miei eroi, mi sono divertita troppo con i Madness. Adesso puoi buttarti dalla finestra. Adesso mi butto dalla finestra, vi prego, qualcuno mi scriva dei miei fan. Esci dalla casa, Giuseppe, esci. No, non posso. Maria, io esco. Maria... No, non posso, e comunque, cioè, difendetemi. Che qualcuno scriva qualcosa. Poi, allora, è vero che sono tutti della mia, però poi sono delle mie cerchie, ma io non avevo dubbi che sui Madness avrei fatto venire giù lo stadio. Roberta Tassi, la prego, intervenga. Tassi darà la ragione a me anche a sto giro. Ecco. Vabbè, qualcuno intervenga. Stanno intervenendo tutti verso di me, anche Salvo dice 100% musica della Marti, ma raga, vabbè, che ma devo dire? La prossima hit è meravigliosa. Sì, quella che abbiamo sentito per sbaglio quattro volte. Poi vedremo. Comunque, non abbiamo ospiti, ma abbiamo come sempre i risultati dei nostri sondaggi settimanali. Io invito sempre tutti a seguire Supermad e Joseph Chucky su Instagram, perché comunque ci sono un sacco di robe, un sacco di contenuti legati a Daily Bug. CMQ. Partiamo con il mio sondaggio. Vai, sentiamo il sondaggione di Martina. Dunque, ho chiesto al popolo dell'Instagram, innanzitutto se erano in smart working, perché sai, magari qualcuno anche no. Il 30% dice sì, il 20% dice non più, bene il 50% dice mai stato. Mai stato in smart working, sì. Porelli. Sì, esatto. La Roby dice aspettiamo la nuova scelta di Juice. Roby, non hai idea. No, ma vedrai che ti divertirai anche con questa. Nicchia, avanguardia. Vabbè. Comunque poi ho chiesto ovviamente come si sono trovati in smart working. Di quelli che hanno fatto smart working, lo 0% mi ha detto male. Ma lo zero, 0%. Il 71% mi ha detto benissimo, solo il 29% mi ha detto a giorni. Quindi alla fine del 50% di prima che era in smart o ha fatto smart, il 70% ha detto tanta roba. Beh, al 26esimo giorno di smart working è un attimo che ti perdi un filino. Vabbè, magari c'ho un sacco di rinati fra i followers. Lobbisti. Esatto. Se potessi scegliere, lavoreresti sempre in smart working? Secondo te, Giuseppe, chi ha avuto la meglio? Sì, il sì? No, ha avuto la meglio il preferirei alternare. Infatti abbiamo un 17% sì, un 17% no e un 67% alla grande che dice meglio fare un po'. Ecco, cioè, il medio stat virtus. Ma anche qui questa domanda è figlia del concetto di home working. Perché cosa vuol dire un po' e un po'? Sei già in smart working se fai un po' e un po'. Sì, in effetti è vero, Martina, mi hai fregato. No, il problema è che la gente continua a pensare che lo smart working è lavorare da casa. Non e invece è così. Non è così, non esatto. È lavorare un po' dove ti cavolo pare. Vuoi. Quindi vuoi andare in ufficio, vai anche in ufficio. E questa cosa non ti rende non in smart working, ti rende smart vuoi worker. Vuoi lavorare da McDonald's? Lavora da McDonald's. Esatto. Se Zara avesse delle postazioni potresti provarti due vestitini mentre rispondi a una mail. Non so se il commesso di Zara potrebbe essere contento di questa cosa. Ecco, mi dicono di no dalla regia. Regia però no. Eventualmente puoi pensare di andare in cantina, al parco. Dove cavolo vuoi. Però sostanzialmente questo è proprio il problema. Ovunque qui tu voglia allestire una postazione di lavoro, esatto. Allora sarai smart la working. Risposta a questa domanda è proprio l'indice del nostro problema tipicamente italiano, poi non so se possiamo estendere a livello europeo o internazionale. Andiamo avanti. In smart working lavori di più o di meno? Di più. Sì, il 78% dice di più. Il 22%, fra cui tu immagino, dice di meno. E anche qui siamo sempre al discorso di prima, che poi in realtà stiamo parlando di smart working, cosa vuol dire? Cioè dipende da dove lavori, probabilmente se stai lavorando in un bar ti consiglierei di andare in un bar a fare operazioni meccaniche, non di andare a fare operazioni di concetto, che poi certo. C'è il caffè la 2, il coso la 4, insomma. Signorina, desidera ancora qualcos'altro? Esatto, quindi è proprio questo un po' il concetto, uno deve sapere cosa deve andare a fare e sceglie il posto giusto per farlo, porcaccia la miseriaccia. Esatto, quando ti devi impegnare vai in biblioteca, quando hai la possibilità di guardarti un po' più intorno vai al parchetto. Esatto, e comunque anche lì, cioè raga, se ti devi confrontare con qualcuno vai dove c'è qualcuno. Esatto. Se devi ragionare e se qualcuno ti parla vai ti rompe le balle, vai in cantina, è molto semplice. Ma qui arrivo all'ultima domanda che ho fatto e arrivo a confermare l'inconfermabile, cioè quanto le persone siano lontane dal concetto di smart working. Perché ti dico ciò? Perché? Perché chiedo, ma dimmi la verità, il tuo era più smart working vero o home working? Secondo te chi ha vinto? Lo smart working pensando che fosse... smart working vero. Esatto. Il 78% dice che era smart working vero, ma io vorrei sapere quanti di loro, quando facevano smart working, si potevano permettere di conciliare altre attività durante la giornata, alzarsi dalla scrivania o dal divano 5 minuti in più rispetto al previsto, e quanti di loro non si sono trovati a lavorare ben oltre il loro orario di lavoro perché non se ne sono accorti. E soprattutto ragioniamo insieme: in lockdown era possibile fare smart working? No. Era home working? Era home working, assolutamente. Poi ovviamente c'era magari quello furbo che in qualche modo che si è trasferito magari nella seconda casa, ed era una seconda casa in una posizione assolutamente carina, però alla fine tu non è che potessi fare più di tanto, quindi, certo. Quindi ragioniamo, amici, ragioniamo. Secondo me ci stiamo facendo fregare e ci freghiamo noi stessi da soli. Allora, io invece ho fatto una domanda sola, secca. Ecco. Smart working sì o anche basta? E la cosa che mi ha sorpreso, perché io ho dato 4 risposte, la possibilità di scegliere tra sì, anche basta, di brutto, solo nomadismo. E il 31% a pari merito, al 31% ci sono sì e solo nomadismo. Ah! Esatto, sono tutti abbastanza concordi nel continuare ad utilizzare questa formula per lavorare un po' da casa, da fuori o in ufficio. Certo. Solo una piccola parte ha risposto anche basta. Sempre lì c'eri tu. Il 15%. Ci sei risposto da solo. Ah. Però insomma, secondo me comunque questi sondaggi sono un po' uno specchio di confusione generale sul tema, sempre poi, a parte la mia categoria preferita dei rinati che secondo me se la stanno spassando alla grande. Io li adoro per questo, cioè hanno ritrovato un loro equilibrio, probabilmente hanno in qualche modo messo in secondo piano il lavoro, ma anche sti cazzi, nel senso che, ripeto, siccome per mia esperienza personale sono persone adulte, certo, quindi il loro bel trentello di lavoro, come dire, alla Stakhanov, per come ce lo ricordiamo noi, per come lo conosciamo noi, soprattutto i milanesi, se lo sono fatti, e vaffanculo. Ma infatti per me loro ce l'hanno fatta. Esatto. Loro proprio ce l'hanno anche fatta. Anche perché loro stanno facendo una logica di: io tiro un attimino i remi in barca, ma che cazzo me ne frega a me, quanto mi rimane? Esatto. Posso starmene a casa, farmi gli affari miei fino alla fine. Ho sempre sognato di avere in soffitta il trenino elettrico che gira tutto il piano. Perché oppure non farlo? Oppure le coltivazioni... Come che si chiamano quelle senza... Le coltivazioni, ho capito quali. Hai capito? Ah, quelle capito. Nelle bolle. Sì. Idroponiche. Bravo, idroponiche. Ma perché non coltivare? Perché non andare in mansarda e mettere le bolle con te? Beh, cioè, ma vedi tu. Va a fa un bagno, ma fatelo, ma fatelo. No, c'ha ragione. Ma perché Gretana, scusami. Possiamo chiedere anche a lei un parere alla nostra redazione? Sentiamo cosa dice la redazione. No, buonasera. Allora, io ho fatto un sacco di tempo a lavorare nei negozi, adesso che sono una smart worker a tutti gli effetti, non tornerei mai più indietro, ma stiamo scherzando? Beh, direi. Cioè, ma poi lavori con me? A parte che lavoro con Martina e io so dove tiene le forchette a casa, talmente inquietante. Sì. Ma oltre a questo, cioè, ma chi cazzo me lo fa fare andare lì? Scusa, ma la L della maglietta, ma prenditela da sola. Vai, no, vabbè, vai. Ok, no. Vero. Ma lì secondo me è una combinazione anche magari di un lavoro che non è che no, ti piacesse più di tanto, esatto, no? Esatto, lì siamo un po' agli estremi. Però devo dire che ho trovato un buon equilibrio. Riesco a portare termine, no? Io lo dico perché c'è Martina davanti che mi guarda. i miei obiettivi, però... Ma è migliorata tanto, cioè, eh? Dipingo anche, è migliorata tanto, anche devo dire. Anche tu sei un hobbista. Sì, sì, ma allora... Tantissimo, cioè io dipingo, faccio i mobili... Beh, allora, che cazzo faccio da vecchia? Esatto. Coltivazioni idroponiche. Esatto. No, secondo me Greta è proprio di quella generazione... La generazione di adesso, insomma, della gente che si sta affacciando all'età adulta in maniera consistente, che ha proprio una concezione completamente diversa del lavoro. Non è quella che hanno insegnato a me o a te, Giuseppe. No, esatto. E loro giustamente non hanno voglia di investire l'85% del loro tempo nel lavoro, per quanto questo lavoro possa piacere, no? E va a fan bagno, se sono bravi, perché poi lì bisogna anche avere comunque un minimo di cultura del lavoro, riescono a bilanciare il tutto. Per esempio Greta all'inizio si perdeva via, adesso dopo un anno e mezzo è assolutamente organizzata, cioè non le devo dire più niente, ma ci sta, cioè alla fine se sei all'inizio sei all'inizio, no? Poi arrivi da anni di esperienza dove fai un lavoro completamente diverso e ci sta. Hai visto tutto, adesso tac. Tutto, niente. Vabbè, io direi che è arrivato il momento del mio stacchetto musicale. Sì, è arrivato il momento del tuo stacchetto musicale. Apprezzerete tutti. Che amerete tutti quanti. Tutti. Vedremo. Tanta roba. Vedremo. Ora che tu hai finito con me, ho tanta voglia d'infinito. Dimenti quel tuo viso andando a piedi a Machu Picchu fino all'Africa. Come un povero Cristo con la sabbia dell'Egitto in una zattera. La sera vado a letto con le stelle e poi mi sveglio sull'isola che non c'è, che non c'è più perdono né perché. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Del silenzio e del sorriso su un'amaca. Divento re del Cipro, ballo il tango all'improvviso, salvo il Senegal. Non devo più promettere a nessuna di non fare tardi, pagando a rate la luna. Non chiedo più perdono né perché. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi e in una cartolina scriverò due punti aperte virgolette. L'amore è un'avventura, ma se vuoi c'è un treno per te. Nessuno sa dove porta o chi ti aspetta, al binario 3. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di infinito. Aspetta, l'hai detto. L'hai detto in talk. Vabbè, volevo gradisco dire... molto, devo dire, questa, ma questa tua scelta musicale. Volevo dire che dopo questo pezzo che ricorda un po' la Summer, che sì, ci la porta Summer, ma anche un Sergio Caputo, mi dicono dalla regia, che non mi dispiace. No, è molto carino. I Selton sono tanta roba. E dedico la canzone a Angela da Barcellona, top, la nostra ascoltatrice internazionale. Esatto. E questo stacchetto, tra le altre cose, ci porta anche al nostro sponsor. Esatto. Al nostro secondo sponsor della giornata. Il secondo sponsor della giornata è il Policlinico di Milano. Grazie. Grazie al Policlinico di Milano che ci ha regalato questa puntata. Ci ha regalato un momento esilarantissimo di questa puntata. Bene, come sempre, il tempo vola quando ci si diverte. Chiudiamo al top con le nostre ultimissime domande a bruciapelo. Cioè, sei pronto? Dai, sono qua per questo. È venuto tipo la notte, quindi esatto, non so cosa leggerò dalla scaletta, ma ci proviamo. Domandone a bruciapelo. Quanto tempo ogni giorno bisognerebbe dedicare al lavoro, secondo te, Giuse? Guarda, massimo 7 ore, dai. Smart working o ufficio? Ufficio tutta la vita, ma con incursioni di nomadismo, più che altro per vedere gente fare cose. Per cui la domanda dopo, nomade digitale? Ovvio. Ovvio. Cosa non ha funzionato del tuo periodo di smart working forzato? Allora, guarda, hai presente il meme dell'anziano davanti al PC che sorride? Linda. Ecco, detto questo, detto tutto. Linda. E invece cosa ha funzionato? Allora, devo dire che il team con il quale lavoro ha reagito molto bene al lockdown, allo smart working o home working forzato, e nonostante tutte le complicazioni abbiamo lavorato tutti molto bene. Se dovessi pensare a un nuovo modello di lavoro, cioè a un nuovo approccio completo, qual è secondo te il modello che farebbe per te? Una scrivania da qualche parte con la possibilità poi di fare nomadismo, anche perché io ho una passione, una grandissima passione, che è la bicicletta. Ancora non capisco perché, ma va bene. Ma non ti preoccupare che adesso arriverà il momento, e che cioè si presta abbastanza bene per fare il nomade. Sì, è vero, anche se poi sulla bicicletta non è che ti puoi guardare il computer. No, è vero, però insomma, quando non pedali lavori e viceversa. Giusto, raggiunto l'obiettivo, esci e pedali. Esatto. Senti Martina, ma se dovessimo fare l'inverso, facciamo, abbiamo tempo? Abbiamo 2 minuti. 2 minuti, dai. Allora, quanto tempo ogni giorno bisognerebbe dedicare al lavoro, secondo te? 6 al massimo. 6 al massimo. Smart working o ufficio? Smart, nomade, tutto ciò che è possibile. Quindi nomade digitale va bene lo stesso. Sì, assolutamente, anche perché, come ci siamo detti, non è che l'ufficio esclude lo smart, no? Dipende dai momenti. Cosa non ha funzionato nel tuo smart working? Quando mi sono persa un po' troppo nel concetto di un working, quindi non era smart working. Cosa ha funzionato invece? Beh, lavorare in tuta. In pigiama e caricare le lavatrici. No, quello non era particolarmente interessante, però io ho vissuto per un sacco di anni svegliandomi molto presto la mattina, mai come mia mamma. Mia mamma ha fatto delle errori incredibili. E scoprire di potersi alzare dopo le 7 per me è stato meraviglioso. Senti, ti rivedresti in un modello di lavoro differente? Beh, se sì, sì. Quale? Cioè assolutamente quello che sto cercando di in realtà trovare, perché poi alla fine non è che esistono dei modelli precostruiti, ognuno dovrebbe riuscire a trovare il suo. Sicuramente un modello di lavoro dove il lavoro rientra nelle mie giornate nel giusto modo, senza essere monopolizzante, questo è sicuro. Insomma, è la strada che sto percorrendo. Ecco. Molto bene, molto bene. Abbiamo raggiunto il 59esimo minuto di diretta. Cioè, siamo stati bravi, nonostante policlinico, Policlinico, sì, siamo stati bravi. Adesso dobbiamo solo capire dov'è la registrazione per portarcela a casa e caricarla sul podcast. Esatto, perché ricordatevi sempre che potrete riascoltare le nostre fantastiche voci anche su tutte le piattaforme di podcasting. Intanto stai cadendo dalla sedia, cioè sei cercando Daily Bug. Allora, sì, esatto, Daily Bug su tutte le piattaforme podcast, oltre... un momento, te lo stavo introducendo. Oltre alle nostre puntate di Daily Bug che sentite in diretta alla radio, trovate anche lo spin-off di Extra Bug, diretto, condotto, pensato da Greta e Davido. quindi molto direi bene. Direi, insomma, un podcast molto ricco. Potete lavorare in nostra compagnia sempre, dove volete, quando volete. Un saluto da casa al pubblico, raga. Va bene, dai, alla ragazza, alla prossima, ciao.